Vengo dal paese dove si trova ora Lelia, rispose Trenmore. Oh, sia benedetto il nome di mia sorella, disse la cortigiana con aria grave e raccolta, poi aggiunse in tono cavalleresco, anche se mi ha lasciato i resti mortali del suo amante. Cosa stai dicendo, donna? Disse Trenmore inorridito. Hai già consumato tanta giovinezza e linfa? Hai già dato la morte a questo fanciullo che non era ancora vissuto? Oh, sei di Stenio che stai parlando, rispose. Non preoccuparti, è ancora vivo. Ha un mese di vita o due, aggiunse uno degli ospiti, lanciando un'occhiata distratta e vaga al sofà dove un uomo dormiva con la faccia nascosta nei cuscini. Gli occhi di Trenmore seguirono la stessa direzione. Vide un uomo dell'altezza di Stenio, ma molto più esile, le cui membra tozze riposavano in un cedimento che annunciava meno l'ubriachezza che la febbre. I suoi capelli, fini e radi, ricadevano in riccioli non arrotolati su un collo liscio e bianco come quello di una donna, ma la cui grassezza tradiva una virilità malata e forzata. «È Stenio?» disse Trenmore con voce bassa e profonda, fissando sulla cortigiana uno sguardo che la fece involontariamente impallidire e tremare. «Potrebbe arrivare un giorno, Pulcherie, in cui Dio ti chiederà conto della più pura e bella delle sue opere d'arte. Non hai paura di pensarci?» «È colpa mia se Stenio è già logoro, mentre tutti noi che siamo qui e che conduciamo la stessa vita siamo giovani e vigorosi. Credi che non abbia altri amanti oltre a me? Pensi che si ubriachi solo al mio tavolo? E tu, Trenmore, poiché ti conosco dai tuoi discorsi e so ora chi sei, non hai conosciuto il delirio della dissolutezza e non sei uscito anche tu dalle braccia del piacere ricco di forze e di futuro? Inoltre, se c'è una donna colpevole della perdita di Stenio, è Lelia, che doveva tenere vicino a sé questo giovane poeta. Dio lo aveva destinato ad amare religiosamente una donna, a scrivere sonetti per lei, a sognare dal profondo di una vita solitaria e tranquilla le tempeste di destini più attivi. Le nostre orge, le nostre ardenti volontà, le nostre veglie rumorose. Egli doveva vederle da lontano, nel miraggio del suo genio, e raccontarle nelle sue poesie, ma non prendervi parte, non interpretarle. Invitandolo al piacere, gli ho forse consigliato di lasciare tutto il resto? Ho detto a Lelia di bandirlo e di abbandonarlo? Non sapevo che nella vita di uomini come lui l'ebbrezza dei sensi dovrebbe essere uno svago e non un'occupazione. «Avete ragione, signora», rispose Trenmore a bassa voce, stringendole la mano con tristezza. «È Lelia che ha perso questo giovane». «Sei venuto qui per cercarlo? Per portarlo via dalle nostre feste? Per riportarlo a una vita di riflessione e di riposo?» «Beh, nessuno di noi si opporrà. Io, che lo amo ancora, ti sarò grata se lo salverai da se stesso, se lo restituirai a Lelia e a Dio». «Ha ragione!» gridarono tutti i compagni di Pulcherie. «Portatelo via, portatelo via! La sua presenza ci rattrista, non è uno di noi. È sempre stato solo tra noi e, pur condividendo le nostre gioie, sembrava disprezzarle. Dai, Stenio, svegliati, rimettiti i vestiti e lasciaci!» Ma Stenio, sordo al loro clamore, rimase immobile sotto il peso di questi voti ingiuriosi e il grigiore del suo sonno lo mise in una situazione in cui Trenmore si vergognò per lui. «Le vostre giovani signorie», disse gravemente, «non abusino dello stato di questo fanciullo, perché se la sua ragione dorme, il suo amico veglia». E così si avvicinò a lui per svegliarlo. Stenio aveva un modo tragico di svegliarsi. Nessuno lo toccava impunemente quando dormiva, gli fu detto. L'altro giorno ha ucciso un cane che amava, perché saltandogli in braccio il povero animale aveva interrotto un sogno in cui Stenio si stava divertendo. Ieri, mentre si era addormentato con i gomiti sul tavolo, l'emerenziana voleva dargli un bacio, così gli ha rotto il bicchiere sul viso e gli ha procurato una ferita, il cui segno, credo, non svanirà mai. Quando i suoi servi non lo svegliano, allora da lui indicata li scaccia, ma quando lo svegliano li picchia. Attenzione, ha in mano il suo coltello da tavola, sarebbe in grado di conficcarvelo nel petto. Oh mio Dio, pensò Trenmore, così cambiato. Il suo sonno era puro come quello di un bambino, e quando la mano di un amico lo svegliava, il suo primo sguardo era un sorriso, la sua prima parola una benedizione. Povero Stenio, quale sofferenza ha amareggiato la tua anima? Quale fatica ha rovinato il tuo corpo perché io ti trovi in questo stato? Questo modo di dormire è quello di un giocatore d'azzardo o di un galeotto. Trenmore, immobile, dietro il sofà, e immerso nei suoi pensieri, guardò Stenio, il cui respiro corto e i cui sogni convulsi tradivano il tumulto interiore. All'improvviso il giovane si svegliò di sua iniziativa e balzò in piedi, gridando con voce roca e selvaggia, ma vedendo la tavola e i commensali che lo guardavano con aria stupita e sdegnata, si sedette di nuovo sul sofà e, incrociando le braccia, vagò su di loro con l'occhio stralunato, la cui forma era stata alterata e arrotondata dal vino e dall'insonnia. «Bene, Giacobbe!» gridò ironicamente il giovane marino. «Hai colpito lo spirito di Dio?» «Stavo lottando con lui», rispose Stenio, il cui volto assunse subito un'espressione di odiosa causticità, ancora più strana di quella che Trenmore conosceva. «Ma ora devo vedermela con un campione più duro, poiché qui sto lottando con lo spirito di Marino». «Lo spirito migliore», disse Marino, «è quello che mantiene un uomo in linea con la sua situazione. Siamo qui riuniti per lottare e bicchiere alla mano, per la presenza di spirito, per l'allegria sostenuta, per l'uguaglianza di carattere. Le rose che coronano la coppa di Zinzolina sono state rinnovate 3 volte da quando siamo qui. E la fronte della nostra bella padrona di casa non ha ancora fatto una piega di malumore o di noia, perché il buon umore dei suoi ospiti non ha rallentato un attimo. Uno solo avrebbe disturbato la festa se non si fosse convenuto che, triste o allegro, malato o sano, addormentato o sveglio tra gli amici del piacere, Stenio non conta, perché la stella di Stenio è tramontata fin dalla prima ora. Che cosa avete contro questo fanciullo? Disse Pulcherì. È malaticcio, è gracile, ha dormito tutta la notte in quest'angolo. Tutta la notte? Oh, disse Stenio sbadigliando. È già mattina. Vedendo le fiaccole accese, speravo avessimo seppellito la giornata. Che cosa? State insieme solo da 6 ore e vi stupite di non esservi ancora annoiati l'uno dell'altro? In effetti, è meraviglioso considerando la scelta e l'assortimento delle vostre signorie. Per quanto mi riguarda, resisterei 8 giorni, ma a condizione di dormire sempre lì. E perché non vai a dormire altrove? Disse Zamarelli, l'ultimo eccellente principe dei Bambucci, morto l'anno scorso, pieno di gloria e di anni, e che fu certamente il primo bevitore del suo secolo, avrebbe condannato all'acqua vita, o almeno alle galere, l'ingrato che si fosse addormentato alla sua tavola. Sosteneva giustamente che un vero epicureo deve riparare le sue forze con una vita ben regolata e che c'era altrettanta impietà nel dormire davanti alle bottiglie che nel bere da soli e tristemente in un'alcova. Quale disprezzo avrebbe avuto quell'uomo per te, Stenio, se ti avesse visto impegnato a cercare il piacere nella fatica, a fare tutto controcorrente, a vegliare e a comporre poesie quando gli altri dormono? A cadere sfinito dalla stanchezza accanto a tazze piene e a donne scalze. O per affettazione o per stanchezza, Stenio sembrò non aver sentito una parola del discorso di Zamarelli. Solo all'ultima parola sollevò un po' la testa stanca, dicendo: «E dove sono?» «Sono andati a cambiarsi d'abito perché domattina siano belli e più giovani», rispose Antonio. «Vuoi che ti ceda il mio posto proprio ora con la torquata? È venuta qui su tua richiesta, ma visto che hai dormito tutta la notte invece di parlarle». «Ah, non mi interessa, hai fatto bene», rispose Stenio, apparentemente indifferente a tutto questo sarcasmo. «Inoltre a me interessa solo l'amante di Marino. Zinzolina, portala qui». «Se avessi fatto questa richiesta prima di mezzanotte», disse Marino, «avrei potuto farti ingoiare i pezzi del tuo bicchiere, ma sono le 6 e la mia padrona è stata qui tutto questo tempo. Prenditela ora, se vuole». Zinzolina si avvicinò all'orecchio di Stenio. La principessa Claudia, che è malata d'amore per te, Stenio, sarà qui tra mezz'ora. Entrerà nel padiglione del giardino senza essere vista. Ieri ti ho sentito lodare la sua modestia, la sua bellezza. Conoscevo il suo segreto, volevo che fosse felice e che Stenio fosse il rivale dei re. Buona Zinzolina, disse Stenio con affetto. Poi riprese la sua indolenza. È vero che l'ho trovata bella, ma è stato ieri. E poi non si deve possedere ciò che si ammira, perché lo si solennizzerebbe e non si avrebbe più nulla da desiderare. Puoi amare Claudia come vuoi, disse Zinzolina, inginocchiarti, baciarle la mano, paragonarla agli angeli e ritirarti con l'anima piena di quell'amore ideale che un tempo si adattava alla malinconia dei tuoi pensieri. No, non parlarmi di lei, disse Stenio con impazienza. Dille che sono malato o morto. Sento che nel mio attuale stato d'animo mi dispiacerebbe e le direi che è molto sfrontata nel dimenticare il suo rango e il suo onore per darsi a uno scapolo libertino. Page, prendi la mia borsa e portami la zingara che ieri mattina cantava sotto la mia finestra. Canta molto bene, rispose il paggio con rispettosa calma, ma vostra signoria non l'ha vista. E a te cosa importa? Disse Stenio con rabbia. Eccellenza, che è terribile, disse il paggio. Tanto meglio, disse Stenio. Ma è nera come la notte, disse il paggio. E in questo caso la voglio subito, obbedisci o ti butto giù dalla finestra. Il paggio obbedì, ma non appena ebbe raggiunto la porta, Stenio lo richiamò. No, non voglio donne, disse. Voglio l'aria, voglio la luce del giorno. Perché siamo chiusi nell'oscurità quando il sole sta sorgendo nel cielo? Sembra una maledizione. Stai ancora dormendo che non riesci a vedere la luce della candela? Oh, che se ne vadano e aprano le imposte, disse Stenio, il cui volto impallidiva. Perché privarci dell'aria fresca, del canto degli uccelli, del profumo dei fiori che si aprono? Quale crimine abbiamo commesso per perdere la vista del cielo in pieno giorno? Ecco di nuovo il poeta, disse Marino alzando le spalle. Non sapete che non si può bere alla luce del giorno a meno che non siate tedeschi o bisbetici? Un pasto senza candele è come un ballo senza donne. E poi un ospite che sa vivere deve ignorare il corso delle ore e non preoccuparsi se per strada è giorno o notte, se i borghesi vanno a letto o i cardinali si svegliano. Zinzolina, disse Stenio in tono di insulto e di disprezzo. L'aria che si respira qui è fetida. Questo vino, queste carni, questi liquori fumanti, tutto questo sembra una taverna fiamminga. Dammi un po' d'aria o farò cadere le vostre torce e romperò i vetri delle vostre finestre. Sei tu che devi uscire di qui e prendere una boccata d'aria, gridarono gli ospiti alzandosi indignati in piedi. Ma non vedi che non ce la fa? Disse la Zinzolina, correndo verso Stenio che era caduto svenuto sul sofà. Trenor la aiutò a sollevarlo mentre gli altri sedevano. Che peccato, si dissero, vedere la Zinzolina, la più pazza delle ragazze, innamorata di questo poeta feticcio e prendere sul serio tutti i suoi vezzi. Torna in te, bambino mio, disse Pulcherie, respira queste essenze, sporgiti dalla finestra, non senti l'aria che ti raggiunge la fronte e ti agita i capelli. Sento le tue mani che mi scaldano e mi irritano, rispose Stenio, togliele dal mio viso, ritirati, puzzi di muschio, profumi troppo di cortigiana, dammi un po' di rum, mi sento pronto a ubriacarmi. Stenio, sei pazzo e crudele, disse la Zinzolina con grande dolcezza. Ecco uno dei tuoi migliori amici che per un'ora ti è stato vicino. Non lo riconosci? Mio eccellente amico, disse Stenio, ti prego di chinarti perché sembri così alto che dovrò alzarmi per vederti e non è detto che il tuo viso valga lo sforzo. Cosa hai perso? Disse Trenor senza chinarsi. La vista o la memoria? Stenio fece un gesto di sorpresa quando riconobbe la voce e voltandosi bruscamente disse: Quindi questa volta non è un sogno. Come posso distinguere la realtà dall'illusione quando la mia vita è passata a dormire o a divagare? Proprio ora ho sognato che eri qui, che cantavi versi più buffoneschi, più rochi, e mi sono stupito. Ma dopo tutto, non ho stupito coloro che mi hanno conosciuto in passato. E poi mi è sembrato che mi stessi svegliando, che stessi litigando e che tu fossi ancora lì. Almeno mi sembrava di aver visto la tua ombra fluttuare sul muro e non sapevo se ero addormentato o sveglio. Ora dimmi, sei tu Tranmore? O sei come me un'ombra vana, un sogno sbiadito, il fantasma e il nome di quello che una volta era un uomo? Almeno io non sono il fantasma di un amico, rispose Tranmore, e se non esito a riconoscerti, non merito di essere ignorato da te. Stenio cercò di stringergli la mano e di sorridere mestamente, ma i suoi lineamenti avevano perso la loro ingenua mobilità e anche nell'espressione della sua gratitudine c'era ora qualcosa di altero e preoccupato. I suoi occhi, privi di ciglia, non avevano più quella velata lentezza che tanto si addice alla gioventù. Il suo sguardo arrivava dritto al viso, brusco, fisso, quasi arrogante. Allora il giovane, timoroso di abbandonarsi al ricordo dei vecchi tempi, si alzò, attirò Tranmore verso il tavolo e con un singolare miscuglio di vergogna interiore e sfacciata vanità lo sfidò a bere quanto lui. «Cosa?» disse la zinzolina con rimprovero. «Hai intenzione di affrettare di nuovo la fine della tua vita? Poco fa stavi morendo e ora stai per divorare ciò che resta della tua giovinezza e della tua forza con queste bevande infuocate? Stenio, vai, vai con Tranmore!» Non rendere impossibile il tuo recupero. Vai con Tranmore, disse Stenio. E dove potrei andare con lui? Possiamo vivere nello stesso posto. Non sono forse bandito dal Monte Horeb, dove Dio si rivela? Non ho forse 40 anni da trascorrere nel deserto perché i miei nipoti possano un giorno vedere la terra di Canaan? Stenio strinse il bicchiere con mano convulsa. Un velo nero sembrò cadere sul suo viso. Poi all'improvviso si animò di quel rossore febbrile che si diffonde in sfumature diseguali sui volti alterati dalla dissolutezza e che differisce essenzialmente dal colorito fine e ben mescolato della giovinezza. «No, no», disse, «non me ne andrò finché Tranmore non avrà incontrato di nuovo il suo amico. Se il giovane fiducioso e credulone non esiste più, deve almeno vedere l'intrepido bevitore, l'elegante voluttuoso che è risorto dalle ceneri di Stenio. Zinzolina, fai riempire tutte le tazze. Bevo agli spiriti di Don Giovanni, il mio capo. Bevo alla gioventù di Tranmore. Ma no. Non basta che riempiano la mia coppa di spezie divoranti, che vi versino il pepe, che altera il chiodo di garofano che fa amare lo zenzero che rode le viscere, la cannella che affretta la circolazione del sangue. Su, pagina sfacciata, preparami questa miscela detestabile in modo che bruci la mia lingua ed esalti il mio cervello. La berrò, anche se dovrò essere costretto a ingoiarla, perché voglio impazzire e sentirmi giovane anche solo per un'ora e poi morire. Vedrai, Tranmore, come sono bello nell'ebbrezza, come la poesia divina scende in me, come il fuoco del cielo incendia i miei pensieri, mentre il fuoco della febbre scorre nelle mie vene. Forza, il vaso fumante è sul tavolo. A tutti voi, bevitori dissoluti, pallidi dissoluti, lancio questa sfida. Vi siete presi gioco di me. Ora vediamo chi di voi avrà il coraggio di affrontarmi. Chi ci libererà di questo spaccone senza baffi? Disse Antonio a Zamarelli. Non abbiamo sopportato abbastanza i suoi modi insolenti. Oh, lasciamolo fare, rispose Zamarelli. Lui stesso sta lavorando per liberarci presto di sé. Un attimo dopo aver ingerito il vino speziato, Stenio fu colto da un dolore lancinante e sulla sua pelle avvizzita apparvero delle marmorizzazioni rosso fuoco. Il sudore gli colava dalla fronte e i suoi occhi assunsero un bagliore quasi feroce. «Stai soffrendo, Stenio?» gridò Marino con un'espressione di trionfo. «No», disse Stenio. «In questo caso, cantaci qualche rima». «Stenio, non sai cantare», disse Pulcherì. «Non provarci». «Canterò», disse Stenio. «Ho perso la voce? Non sono più quello che applaudivate con entusiasmo e i cui accenti vi hanno gettato in un'ubriacatura più dolce del vino?» «È vero», dissero i bevitori. «Canta, Stenio, canta!» E si affollarono intorno al tavolo perché nessuno di loro poteva contestare il dono dell'ispirazione di Stenio e tutti si sentivano attratti e dominati da lui quando trovava un barlume di poesia in mezzo al tumulto in cui era stato gettato. E così cantò con voce alterata ma vibrante e accentata nella lingua più dolce dell'universo. Inno ebro. Che il fuoco di Cipro scorra nelle mie vene. Cancelliamo dal mio cuore le vane speranze e alla memoria giorni sbiaditi la cui immagine non è gradita. Come il fondo di un lago puro, una nuvola scura disturberà il futuro. Lascia perdere, la saggezza suprema è ignorare i giorni risparmiati dall'ubriachezza e non sapere se il giorno prima era sobrio o se nei nostri anni i più belli stanno già scomparendo sbiaditi prima dell'ora di sera. La tua voce si sta indebolendo, Stenio, gridò Marino dall'estremità del tavolo. Sembra che cerchi i tuoi versi e tu li tragga con fatica dalle profondità del tuo cervello. Ricordo quando improvvisavi 12 strofe senza farci languire, ma tu vai a fondo, Stenio. La tua amante e la tua musa sono ugualmente stanche di te. Stenio rispose solo con uno sguardo di disprezzo battendo sul tavolo e continuò con voce più sicura. Che mi portino una bottiglia, che la mia coppa sia riempita, traboccante, e il mio labbro immerso nella feccia di questo flusso radiante svanisce, si prosciuga e chiede di più. Un nuovo calore per questo vino che divora e che mi eguaglia agli dèi. Sui miei occhi abbagliati scenda un velo spesso. Lascia che questa torcia confusa si spenga e fammi sentire nel cuore della notte l'urto sonoro dei tuoi tagli che si scontrano. Come sull'oceano le onde sono agitate per il vento che fugge, se il mio sguardo si alza nel mezzo dell'orgia, se le mie labbra tremano e schiumano di rosso, cercare un bacio. Lascia che i miei desideri ardenti sulle spalle nude di queste donne d'amore per i miei piaceri vengano, non può essere calmato. Che nel mio sangue impoverito le loro carezze lussuriose riaccendere oggi il convulso ardore da un sacerdote di 20 anni, che i fiori delle loro fronti siano seminati dalle mie mani, che intreccio le trecce profumate tra le mie dita dei loro capelli fluttuanti. Lasciate che il mio dente furioso si attacchi alle loro carni palpitanti, strappare un grido di paura, lasciare che la loro voce, senza fiato, mi chieda di ringraziarle, che i nostri sospiri si fondano in un ultimo sforzo, con una sfida finale, lasciamo che le nostre grida si rispondano a vicenda e che io possa morire così. Stenio, stai impallidendo, gridò Marino. Basta cantare o esalerai l'ultimo respiro all'ultima strofa. Basta interrompermi, gridò Stenio con rabbia, o ti ficco il bicchiere in gola. Poi si asciugò il sudore dalla fronte e con una voce piena e mascolina che contrastava con i suoi lineamenti esausti e il pallore bluastro che si diffondeva sul suo viso arrozzato, si alzò e disse: Oh, se Dio mi nega una morte fortunata, di gloria e felicità allo stesso tempo incoronato, se sento i miei desideri di rabbia impotente, agonia immortale, come un pallido riflesso di una fiamma sbiadita, sopravvivere ai miei piaceri, del mio geloso padrone che insulta il capriccio, che questo vino generoso possa abbreviare il tormento del corpo che si intorpidisce. In un bacio d'addio le nostre labbra si abbracciano. In un sonno gelido tutti i miei desideri si spengano e che Dio sia dannato. Mentre terminava questa frase, Stenio divenne livido. La sua mano barcollò e fece cadere la tazza che portava alle labbra. Cercò di lanciare uno sguardo di trionfo ai suoi compagni, che si stupirono del suo coraggio e si rallegrarono delle corde maschili che era ancora riuscito a estrarre dal suo petto esausto, ma il corpo non poteva resistere a quella feroce battaglia con la volontà. Si accasciò e Stenio, colto da una nuova prostrazione, cadde a terra svenuto, con la testa che sbatteva contro la sedia di Pulcherie, il cui vestito era arrossato dal suo sangue. Alle grida della zinzolina, le altre cortigiane accorsero e, vedendole tornare abbaglianti nella loro bellezza, nessuno pensò più a Stenio. Pulcherie, con l'aiuto del suo paggio e di Trenmore, portò Stenio all'ombra del giardino, vicino a una fontana che sgorgava nel più bel marmo di Carrara. «Lasciatemi solo con lui», disse Trenmore alla cortigiana. «Ora appartiene a me». La zinzolina, creatura buona e spensierata, pose un bacio sulle labbra fredde di Stenio, lo raccomandò a Dio e a Trenmore, sospirò profondamente allontanandosi e tornò al banchetto dove la gioia ora regnava più luminosa e rumorosa. «Un'altra volta», disse Marino a Zinzolina, restituendole la coppa, «spero non presterai questa bella coppa al tuo ubriacone Stenio. È un'opera del Cellini. È stata quasi rovinata nella sua caduta».